Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo chiaramente, come già i nostri GR24 vi hanno anticipato, dei dati sulla disoccupazione che sono deludenti, lo dico subito così evitiamo polemiche, soprattutto se si guarda mese su mese, meglio se si guarda l'anno su anno, ma insomma nel mese su mese il dato è di dicembre. Il tasso di disoccupazione è risalito all'11,4% dall'11,3% di novembre. Se si guarda rispetto al dicembre 2014 c'è un miglioramento, però nel senso che dello 0,9% era infatti al 12,3%. Le persone in cerca di occupazione sono aumentate di 18.000 unità su novembre, sono 254.000 in meno invece quelli che cercano un'occupazione rispetto a dicembre, meno 8%. La disoccupazione giovanile scende invece anche rispetto a novembre di poco, 37,9 contro il 38%. Quindi il dato tendenziale anno su anno è positivo, il dato mese su mese invece è negativo, e questo bisogna capire se poi segnala che si è fermato il processo di aumento dell'occupazione e riduzione della disoccupazione. In un anno i contratti a tempo indeterminato hanno fatto più 1%, 135.000 contratti in più. I contratti a tempo determinato hanno fatto più 5%, i lavoratori autonomi sono 138.000 in meno, i contratti a tempo indeterminato sono 135.000, attenzione a fare però un'equazione troppo facile, anche se la cifra è molto vicina, è tutto da dimostrare che le partite IVA si siano trasformate tutte in lavori a tempo indeterminato, e di questo parleremo. Parleremo in apertura anche di altre notizie che riguardano l'economia italiana, ma non solo. Segnalo a chi me lo sta scrivendo che certo che parleremo anche di borsa. La borsa adesso perde di nuovo male, meno 3,15%, non c'è grande notizia, nel senso che ahimè ci stiamo abituando, ma il calo della borsa è di nuovo sul Monte dei Paschi, non si accenna il calo del Monte dei Paschi, meno 8,30% a 58 centesimi di euro per azione. Popolare Emilia Romagna meno 6,70, Ubibanca meno 5,20, Pop Milano meno 5%. Ancora faccio notare che alcune di queste banche ieri avevano recuperato, in particolare il Banco Popolare, la Pop Milano. Ma segnalo che anche Intesa San Paolo va male oggi, il 3,60%, e sui titoli anche Risparmio Gestito Banca Mediolanum un meno 3,90%, Azimut meno 3,33%. Sui bancari, proprio in Romagna, Ubibanca meno 5, l'abbiamo detta. Eccolo qua, il Banco Popolare anche oggi si comporta meglio delle altre, meno 1,44%. Infine Unicredit, avete ragione, non l'ho detta, meno 3,52% in questo momento. Ferrari molto male, meno 7,70, Steamacro Electronics meno 5,20, Eni meno 5%. Vanno male tutte le borse europee, devo dire la verità, questo non si può dire ma comune mezzo gaudio, però Parigi perde il 2,80, Milano il 3, per cui siamo lì, Francoforte perde il 2%, Londra meno 2,52%. C'è stato, al di là dei casi bancari italiani, c'è un nuovo tonfo del petrolio che ha abbattuto tutti i titoli legati al petrolio, non a caso Eni perde il 4,87, che per Eni è tantissimo, e adesso vi arriveremo. C'è stata anche una sospensione di Ubibanca e Popolare di Milano per eccesso di volatilità, però dicevo, tutte le borse sono mal intonate e anche l'America ha dato una mano ai cali, meno 1,40% il Dow Jones in questo momento. Che cosa è successo con il petrolio? Diamo subito la notizia. Beh, di nuovo, a mio avviso era abbastanza immaginabile dopo che ieri l'Arabia Saudita ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di tagliare la produzione di petrolio. Comunque, meno 5%, è tornato a $30 al barile. Buona notizia, e questa è veramente una buona notizia, per i cittadini italiani e automobilisti, che il prezzo della benzina è sceso sotto quota 1,4 euro. So che c'è chi dirà, ma insomma, ma cala molto di più il prezzo del petrolio. Sì, ma ormai paghiamo, adesso come battuta qualcuno mi ha scritto, ormai il pieno lo facciamo con le accise e con l'IVA. Insomma, è chiaro che il prezzo del petrolio è il 30%, e quello ti giochi sul prezzo internazionale, comunque sul totale del 100% del prezzo della benzina. Comunque è tornata sotto l'1,4 euro per litro, non capitava dal novembre 2010, siamo a 1,392 euro al litro, il 1 febbraio è sceso a 1,387 euro al litro. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, a cura del oggi del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Paterotti. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Paterotti. L'oro nero cade, l'oro vero sale, le borse cadono. Questo è un po' il ritornello del 2016, con qualche sorpresa. Come molti prevedevano, finché le borse scendono, l'oro sale, ma quello vero. Balzo del 6% soltanto dal 2016, $1,127 l'oncia, l'oro nero, il petrolio, sotto i $30 con un calo del 18%. Ma se rapportato poi agli indici di borsa, il distacco che sta acquistando l'oro sulle altre attività finanziarie è impressionante. L'indice Standard & Poor's è in ribasso addirittura dell'8% e 1.100 punti sono stati persi soltanto dall'indice Dow Jones. Scende tutto, tecnologia, banche, industria. Quello che non scende è quello che protegge, dicevano una volta i mercati, e non a caso, insieme a loro, corse ai titoli di Stato americani, sempre considerati come il bene rifugio per eccellenza. Quale considerazione possiamo trarre da questi eventi? Sicuramente una: tenete ben d'occhio il mercato dell'oro, perché ogni volta che c'è una variazione dei futures al rialzo, vuol dire che per i titoli quotati sarà una giornata nera. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora andiamo avanti con le altre notizie. Certo che parleremo dell'Argentina, mi scrive un ascoltatore, bene, si è raggiunto un accordo, una vicenda che ormai sembra preistoria, ma si è raggiunto un accordo sull'Argentina e ne parleremo. Avremo il presidente della Task Force Argentina, Nicola Stock, a 15 anni dal fallimento, 15 anni, eravamo già in diretta, mamma mia. L'Argentina ha archiviato il contenzioso aperto con 50.000 risparmiatori italiani che non avevano ancora aderito alla ristrutturazione del 2005 del 2010 e che ancora avevano in mano titoli per un conto valore di €900 milioni. In base a un accordo tra la Task Force Argentina e il governo di Buenos Aires, riceveranno €1,3 miliardi in contanti. Resta chiaramente, per quello che riguarda l'Argentina, ancora da definire la situazione della maggioranza dei risparmiatori che hanno in mano i titoli ristrutturati, ma ripeto, abbiate un po' di pazienza, ne parleremo tra poco con il presidente della Task Force Argentina. Altre notizie per quello che riguarda l'economia internazionale: è ovvio che con questo prezzo del petrolio è crollato l'utile di ExxonMobil, ma sopra le attese comunque per il periodo che il quarto trimestre si chiude con un profitto di $2,780 milioni contro i $6,570 milioni dello stesso periodo del 2014, però sono 60 centesimi per azione contro i 63 attesi. Crolla invece l'utile anche di BP, British Petroleum, meno 91% a 196 milioni di dollari contro i 2 miliardi e 240 milioni di dollari dello stesso periodo, meno 91% l'utile di BP, che ha annunciato che taglierà 7.000 posti di lavoro entro il 2017, meno 5% in borsa, è arrivata a perdere BP. Allora, molti ci scrivono, attenzione, è chiaro che quando cala e crolla il prezzo del petrolio, poi ne pagano le conseguenze i grandi gruppi energetici. Ecco perché è un po' paradossale che da noi Eni, che è il primo gruppo italiano fondamentale per l'economia del paese, stia soffrendo parecchio, e questo è nel, e questo crea anche dei problemi, crea dei problemi agli azionisti, il dividendo, le assunzioni, l'occupazione. Però la cosa un po' paradossale è che tutto sto beneficio l'italiano medio non ce l'ha per il carico delle accise dell'IVA, perché tu potresti dire, vabbè, ok, purtroppo soffrono le compagnie petrolifere, le compagnie legate, Tenaris e non solo, però almeno noi italiani abbiamo un grande beneficio da questo crollo del prezzo del petrolio. Così non è, perché è un beneficio marginale. Ecco perché diciamo la situazione è un po' paradossale: hai tutti i danni sui titoli legati al petrolio e pochi vantaggi per gli autotrasportatori, quindi per il prezzo delle merci, per i cittadini automobilisti. Nel frattempo l'Eni, visto che di Eni parlavamo, ha firmato in Ghana accordi fino al 2036 e tra l'altro il premier Matteo Renzi oggi, che nella tappa è arrivato ieri sera in Ghana, ma nella tappa ghanese ha detto che vi sono anche per il settore agroalimentare grandi occasioni, sottolineando la strategia di medio e lungo periodo che il governo ha avviato in Africa. Poi c'è la vicenda della Trevi, che si è aggiudicata l'appalto per la diga di Mosul, già era, diciamo, la principale candidata, mettiamola così, lo ha confermato il portavoce del governo iracheno, deve rinnovare e fare manutenzione alla diga, contratto vale 230 milioni di euro, vi saranno i militari italiani, lo ha confermato il ministro degli esteri Paolo Gentiloni a i contatti con Baghdad, ha detto Gentiloni, vanno avanti da settimane, i soldati italiani saranno a difesa della diga, le modalità di azione saranno prese in accordo con il governo iracheno, la partecipazione dei nostri militari sarà definita molto presto. Poi sul fronte dei mercati internazionali il rublo è di nuovo impicchiato, 86,52 rubli per un euro e 79,19 per un dollaro. La lista di aziende da privatizzare non è pronta, fa sapere Putin, non escludiamo gli stranieri dalle privatizzazioni, e però il ministro dello sviluppo economico Alexis Ulyukayev ha detto che le privatizzazioni non possono più aspettare. Beh, del resto uno dei problemi della Russia, al di là dell'embargo per la vicenda ucraina, è che ha fatto privatizzazioni che poi Putin negli anni si è rimangiato. Ci sono i famosi oligarchi, come si chiamava una volta, di Stato. Insomma, il mercato è tutto tranne che competitivo, concorrenziale e liberalizzato. Ecco perché poi, e basarsi solo sul petrolio e sul gas in questo momento mette la Russia in ginocchio. Per quello che riguarda il dato complessivo sulla disoccupazione, invece, in Italia e in Europa, scusatemi, è scesa al 10,4% a dicembre. C'erano 18.200.000 europei nell'area euro senza lavoro a dicembre 2014, a dicembre 2015 sono scesi a 16.700.000, quindi 1.500.000 di persone che hanno trovato il lavoro. E la Germania tocca il minimo storico della disoccupazione da quando ha avviato la riunificazione delle due Germanie. I disoccupati in Germania sono al 6,2%. 349-238-6666 per i vostri sms e poi per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo con il primo approfondimento che in realtà riguarda alcune dichiarazioni rese oggi dall'ex numero uno dell'Eni, e mi riferisco a Paolo Scaroni, attualmente deputy chairman, vicepresidente, ma in inglese questa carica ha un valore un po' diverso, di Rothschild Bank, ha parlato di tutto, sia del suo ruolo in generale che del suo ruolo dell'ILVA, che dell'eventuale di, co-

capogruppo di Fratelli d'Italia. Secondo l'accusa, i consiglieri si sarebbero fatti rimborsare spese private con soldi pubblici, spacciandole per attività istituzionali. Le accuse sono di peculato. È falso. Prosciolto invece Mario Melotti, l'ex contabile del PD, mentre Maurizio Torterolo della Lega Nord ha patteggiato 2 anni. Il processo inizierà il prossimo 8 gennaio, quindi fra un anno. E Totti, il governatore della Liguria, ha detto: spero ancora nello stato, spero che in Liguria, nonostante 10 anni di governo di sinistra, ci sia ancora lo stato di diritto, tre gradi di giudizio e la presunzione di innocenza. Sì, Totti, c'è. Qual è? Non capisco la polemica. No, siccome questo programma si è dovuto occupare come rubrica settimanale anche delle spese pazze della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, ne abbiamo raccontate di tutti i generi. Sì, certo che c'è lo stato di diritto, c'è il primo grado, il secondo. Cosa vuol dire? C'è anche una politica che si difende sempre a prescindere. Qui, insomma, c'è un rinvio a giudizio sulle spese pazze, uno ha già patteggiato. Vuole... venerdì le raccontiamo tutte quelle della Liguria, così vediamo di capire, perché poi uno può giustificare: no, ero lì per un altro motivo, ero lì per motivi istituzionali. Ma noi abbiamo raccontato nel Piemonte anche il teletrasporto, c'è uno che pagava uno scontrino da una parte e poi il pedaggio dall'altra parte. Come fai a dire che quello è una violazione dello stato di diritto? No, non facciamo sempre l'arroccamento, cane non mangia cane, nel senso, diciamo, metaforico del termine. Va bene, andiamo a Bruxelles. Adriana Ceretelli, Adriana, buonasera. Ah, buonasera. Editorialista Sole 24 Ore, non ne posso più di questa. Ma non si possono telefonare ogni tanto. Allora, Renzi dal Ghana dice: serve strategia, non polemicucce. Il tema ancora sui migranti. Weber a Renzi dice: attenzione, non ci sarà nessun margine di flessibilità. Dico subito una cosa, poi ascoltiamo Renzi. Che secondo me l'Italia, che ha sbagliato tante cose, a Bruxelles abbiamo raccontato molte volte, sul tema dei migranti, politicamente ha ragione, nel senso che non sfugge a nessuno che finché, è brutto dirlo così, ma è così, finché i morti, donne e bambini, galleggiavano sul mar Mediterraneo di fronte a Lampedusa, alla Sicilia, l'Europa si girava dall'altra parte per anni. C'era Mare Nostrum e poi c'era Triton. Quando gli sbarchi via Grecia, cioè dalla Turchia alla Grecia, hanno iniziato a risalire i Balcani e quindi... Serbia e poi Slovenia, Croazia, Slovenia, Austria, Germania, improvvisamente i popoli del nord, tanto educati, si sono resi conto che c'era un problema di migranti e bisogna dare i soldi alla Turchia. Su questo proprio non ho dubbi. Sentiamo Renzi sulle polemicucce e poi dopo il... anzi, facciamo così, meteo, pubblicità, Renzi sulle polemicucce, Weber che dice all'Italia: attenzione, non ci sarà nessuna flessibilità, spero che vi sia arrivata la lettera di Juncker, e l'analisi di Adriana Ceretelli. Focus Economia. Non voglio fare polemiche, anche perché credo che le polemiche alla fine lasciano il tempo che trovano. Noi siamo l'Italia. E l'Italia è un grande paese che ogni anno dà a Bruxelles molti più soldi di quelli che riceve. Ogni anno l'Italia mette 20 miliardi sul piatto di Bruxelles e ne riceve 11. Ora, perché lo facciamo? Perché storicamente abbiamo una visione dell'Europa, della pace in Europa, che è un valore. E noi vogliamo lavorare in questa direzione. Ma proprio per questo non prendiamo lezioncine da nessuno dei nostri amici europei. Siamo pronti a imparare da tutti, ma... il tempo in cui da Bruxelles ci dicevano cosa fare e cosa no è finito. L'Italia ha fatto le riforme, ha fatto la sua parte, sta lavorando. Noi siamo pronti a dare una mano. Siamo qui in Africa perché vogliamo risolvere a monte il problema dell'immigrazione, perché vogliamo investire in un rapporto diverso con questi territori. Il fatto che la crescita richieda investimenti e che l'unico modo per dare un futuro ai nostri giovani siano i posti di lavoro lo capiscono tutti, persino a Bruxelles, forse. Allora, se l'Europa vuole finalmente vincere la crisi di ideali e di valori che ha davanti a sé, è il momento di avere una strategia di lungo periodo e non soltanto qualche dichiarazione o qualche polemicuccia da 4 soldi. Noi come Italia dobbiamo ricordarci chi siamo, ovunque siamo considerati come un punto di riferimento importante. We'll be right back. decisione di auslegung des. Si tratta della discussione sull'interpretazione del patto di stabilità. La mia sensazione è questa. Ecco, se ci sono dei costi che devono essere classificati in un modo o nell'altro per bambini che arrivano dalla Libia o no, ecco, non so se è una decisione che deve prendere l'Italia. È una discussione anche molto molto dettagliata e alle volte ci si perde un pochino nei dettagli e si dimentica quello che è il quadro generale. Il quadro generale è questo, c'è la Commissione europea che negli ultimi anni ha dato flessibilità su questo patto, come era stato richiesto dai capi di Stato e di Governo, e ha dato la massima flessibilità. Poi ci sono i socialisti all'interno della Commissione europea, come Moscovici, che constatano che non ci sono più margini di flessibilità. Lo constatano persino i commissari in quota socialista. Ecco, questa è la situazione in cui ci troviamo. Per cui sarebbe auspicabile constatare lo stato dei fatti. Juncker ha spedito una lettera a Matteo Renzi ricordandogli quelli che erano gli obblighi. Purtroppo, insomma, la cosa ha richiesto vari scambi. È un peccato. Comunque Juncker ha riconfermato molte volte questo messaggio. Spero che adesso sia arrivato a destinazione. Allora, abbiamo sentito nell'ordine il Presidente del Consiglio Renzi che dice basta con le polemicucce, non prendiamo lezioni, possiamo imparare ma non siamo più sul banco degli imputati, e Weber che è il Presidente dei Deputati Europei del PPE che ha ribadito nessun margine per ulteriore flessibilità, l'abbiamo spiegato, e aggiunge spero che la lettera di Juncker ieri sia arrivata a Renzi, un po' polemico, e aggiunge guardate che anche i commissari socialisti, penso a Moscovici, cioè quelli più vicini al tema della flessibilità, sostengono che non vi sia più flessibilità. Insomma, mi sembra che si sia placata poco la polemica, Adriana Ceretelli, tra Roma e Bruxelles, o secondo te ci sono gli ultimi strascichi? No, no, purtroppo temo che non siano gli ultimi strascichi, la polemica non si placa e io credo che sarebbe meglio che si placasse al più presto. Perché sinceramente credo che questi toni alti, non tesi, non facciano bene agli interessi dell'Italia in Europa. Quando appunto Juncker manda una lettera formale per ricordare al Premier che le sue rivendicazioni sullo scomputo dei soldi che vengono dati alla Turchia, che quelle decisioni erano state prese niente proprio di meno che dopo un vertice europeo in dicembre, lo coglie in fallo e mette in evidenza il fatto che la sua appare una polemica strumentale. Cioè coglie in fallo Renzi, coglie in fallo Renzi. Ovvio, ovvio, certo, perché voglio dire, lo coglie in fallo nel senso che è una decisione presa in quell'occasione, eccetera, è stata ignorata. Allora uno dice perché è stata ignorata? Qualsiasi sia la ragione, non depone a favore dell'Italia e dei suoi toni alti nel polemizzare. Lo stesso era stato quando in Italia, no, c'era stata questa grande polemica gridata contro il capo di gabinetto di Juncker, il famoso tedesco Selmayr. Certo. Quando Renzi aveva, prima di partire per la visita a Berlino, detto chiederò la testa di Selmayr, adesso non l'ha detto esattamente così, ma questo era il senso, e poi l'argomento è sparito dai radar. Allora, tutto questo non fa bene all'Italia, lo dico naturalmente con la percezione che si ha da qua. Non aumenta il nostro peso, non aumenta la nostra credibilità, sono i fatti che aumentano la nostra credibilità e soprattutto poi nel momento in cui noi abbiamo bisogno di negoziare appunto sulla flessibilità e la risposta è in mano alla Commissione, la logica del muro contro muro non ci aiuta, anche perché si può pure notare che noi alziamo la voce, ma nessuno in Europa, diciamo, ci dà ragione, alza neanche un dito per dire beh, in fondo però sentiamo Renzi le ragioni ragione dell'Italia. C'è un silenzio totale, veramente tombale, per cui io trovo che è molto pericoloso, soprattutto in questa Europa che non è più l'Europa di una volta, relativamente coesa, solidale, ma è un'Europa che medita di spaccarsi, sogna la piccola Schengen, sogna di isolare la Grecia, e io temo che dopo la Grecia possano arrivare altri paesi periferici, tra cui il nostro. Ecco, non mi sembra che sia una politica costruttiva a difesa del nostro interesse. Allora, dico una cosa agli ascoltatori. Scusate, però, abbiate pazienza. Alcuni di voi criticano chi vi parla perché lo definiscono troppo renziano, o delle volte perché facciamo ascoltare il Presidente del Consiglio. Io ripeto ogni volta, guardate che facciamo ascoltare tutti i Presidenti del Consiglio. Adesso qualcuno dice, ecco, la Cerretelli è troppo schierata con Bruxelles. Embedded, allora, e quindi possiamo lasciare da parte, ognuno di noi ha delle sue opinioni, però veniamo pagati in caso specifico Adriano Cerretelli per fare delle analisi che uno può o non può condividere, ma smettiamola di dire sei embedded di qua e di là. Io posso essere d'accordo con Renzi sulla politica in Africa, lo dico perché per anni siamo stati latitanti, posso essere d'accordo che ci siano stati due pesi due misure sugli migranti, e posso non essere d'accordo su altre, sulla manovra finanziaria, sulla legge di stabilità. Abbiamo criticato in tutti i modi possibili il fatto che i soldi venissero dati per l'IMU e non per IRAP e IRES, ma non so più come spiegarlo. Cioè, non è che il cervello sia sempre all'ammasso, no? Uno può avere idee articolate, ci sono 50 sfumature di grigio intese come materia grigia, non il resto, per cui uno ha diverse idee. Adriana Cerretelli, che ha un'esperienza decennale a Bruxelles, ci dà un'informazione a mio avviso importantissima. Attenzione che questa strategia, anche perché si sta muovendo nel silenzio degli altri partner europei, penso alla Spagna e alla Francia in primis, no? Anche al Portogallo, cioè i paesi del sud che dovrebbero dire, beh, Renzi non ha tutti i torti, aveva detto qualcosa il ministro dello sviluppo economico francese due settimane fa, però è una strategia che rischia di isolarci, è l'analisi di Adriana Cerretelli. Per ascoltare anche un altro passaggio, vi faccio sentire cosa ha detto invece il presidente dei deputati europei del PPE, Gianni Pittella, sulle parole di Weber, e non mi sembra che butti acqua sul fuoco. Collega Weber è un recidivo, rischia di diventare anche un sabotatore delle intese politiche che stanno alla base della coalizione del presidente Juncker. Il principio di flessibilità non è un affare tra il governo italiano e la Commissione europea, è una conquista del gruppo dei socialisti democratici e anche della presidenza italiana del Consiglio, che significa più margini al patto di stabilità per investire nella crescita, nel sostegno agli investimenti e nel lavoro. Chi sabota questo principio vuol sabotare l'alleanza. Allora, Adriana Cerretelli, c'è un'obiezione però che fanno gli ascoltatori, che invece a mio avviso ha una logica forte, cioè dicono, ok, però in questi anni essere stati silenti e proni non è che abbia pagato molto, ecco, su questo sono d'accordo, abbiamo avuto in Europa trazione solo tedesca che a noi ci ha preso abbastanza in giro. E altri aggiungono, beh, insomma, Cameron però è molto più pesante di Renzi, ci mancherebbe, sulla Brexit e quant'altro, ha toni molto più duri, eppure sta tenendo appese, diciamo, l'Europa su questo. Perché Renzi dovrebbe vergognarsi, tra virgolette, di avere toni così duri? Mi dà la risposta dopo il traffico, grazie. 349-238-6666 per sms, whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ho sbagliato, chiaramente Pittella è del PSE, dei socialisti europei, non del PPE. Scusate il refuso. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, Adriana Cerretelli, non è che nel passato stare proni ci sia servito, e comunque Cameron con la Gran Bretagna ha dei toni ben ben più alti e nessuno però si lamenta, e soprattutto, diciamo, tiene appesa la Commissione europea. Beh, innanzitutto diciamo che io per il momento non ho visto diciamo dei risultati positivi ed esaltanti da queste polemiche, diciamo per nobilitarle, di tipo gollista lanciate dall'Italia contro l'Europa. Mi sembra che poi gollista, alla fine, sì. Appunto per nobilitarle. Sì, sì. cioè voglio dire, mi sembra che alla fine che cosa ha ottenuto l'Italia da questo atteggiamento? Non lo so, mi piacerebbe saperlo. Cameron e l'Italia non sono due paesi paragonabili. L'Italia è sempre stata il campione dell'europeismo, di una Europa positiva, federale. Mm-hmm. Lo stesso Renzi milita per questo. Cameron e il suo paese sono sempre stati il campione del contrario, dell'euroscetticismo ante litteram, di un'Europa limitata ai liberi scambi e al mercato. E Cameron è conseguente con questa visione inglese del rapporto con l'Europa e quindi lancia il terzo rinegoziato con l'Europa dalla storia della visione inglese. Noi per ora non mi risulta che vogliamo uscire dall'Europa, che vogliamo fare un referendum contro l'Europa. Noi vogliamo stare di più in Europa, ma contare in Europa. E allora quello che io dico è, che naturalmente è una, mi sembra una politica più che condivisibile, ma quello che io dico, che sono la prima a dire che vorrei che l'Italia contasse molto di più, il dubbio è se questa politica un po' rodomontesca nelle dichiarazioni, nei clash con l'istituzione Commissione, che in fondo è sempre stata l'alleato tradizionale dell'Italia, sia funzionale alla difesa dei nostri interessi o invece non sia alla lunga nociva e ci isoli in Europa invece di guadagnarci alleati. Per ora, diciamo, questa politica gridata non mi sembra che abbia dato i risultati che penso che Renzi si augurasse. Allora, dal punto di vista dei fatti, dal punto di vista dei fatti, ma ci mancherebbe. Sollevi questo Renzi, visto un po' come lo descriverebbe l'Ariosto, va benissimo. Devo dire una cosa: dal punto di vista dei fatti, è vero, cioè in questo momento la polemica è ancora lì. E a colpi di lettere di Juncker, e quell'altro che dice spero che la lettera sia arrivata. E Renzi che dice non voglio le polemicucce. Noi non sappiamo, questo lo dico, se in realtà fra un mese, due mesi noteremo una Commissione europea che sta più attenta con l'Italia, e sono d'accordo. La cosa che mi lascia più perplesso nel senso negativo, e sono d'accordo con te in questo, Adriana, è che obiettivamente c'è un silenzio totale nel resto d'Europa, quindi la Francia continua a cercare per motivi di grandeur la spalla tedesca, la Spagna continua altalenante a non volersi confondere con l'Italia, poi resta il Portogallo e la Grecia, capito? Ma insomma l'Europa del sud è finita lì, insomma, che sia molto più ampia. E c'è un silenzio obiettivamente anche all'interno, diciamo, del Partito Socialista, lasciamo stare in questo caso Pittella. Io dico una cosa, nel ringraziare Adriana Ceretelli, chi ascolta ha qualunque opinione possibile, questo programma, come altri programmi, è uno stimolo mentale alla riflessione, poi uno la pensa come vuole, è anche gratis, che volete di più? Neanche si paga il canone per Radio 24, per cui grazie Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, che riavremo presto ospite, dove è editorialista del Sole 24 Ore. Da Bruxelles all'Argentina il volo è pindarico, ma il tema c'è tutto, perché oggi si è raggiunto l'accordo anche per i 50.000 risparmiatori italiani che avevano obbligazioni argentine e non avevano aderito all'accordo del 2005 e del 2010. Tuffo indietro nel passato, perché mi ricordo molto bene la diretta di Focus Economia sotto Natale, passato da poco Natale, prima di Capodanno, me la ricordo perché uno era con la testa già altrove, quando l'Argentina andò in default. Lì c'era un caso molto diverso, lo dico perché non voglio paralleli con Etruria e quant'altro, quelle obbligazioni rendevano tantissimo, quindi uno può dire che chi le comprò un po' avido era, tra il 7 e il 9% i rendimenti. Nel caso dell'Etruria e delle altre tre banche, il tema del dolo è anche perché i rendimenti erano bassi e quindi non davano l'idea di un investimento a alto rischio. Comunque, erano rimasti 50.000 gli italiani, i risparmiatori, che non avevano aderito alle ristrutturazioni, con in mano 900 milioni di euro di controvalore. Nicola Stock, presidente della Task Force Argentina, buonasera. Buonasera. Buonasera. Io so che lei ha degli appuntamenti dopo le 18, però siccome molti sono in ascolto, le chiederò anche qualche minuto dopo le 18, poi la libero. Per carità. Mi dica, no, anche perché a uno che fa il presidente della Task Force Argentina, se non ne approfitta adesso, mi dica che cosa prevede l'accordo per i 50.000 e poi le dirò le proteste che mi stanno arrivando di chi invece ha già aderito all'accordo, i sospetti, i dubbi. Che cosa prevede l'accordo di oggi? Dunque, prima di tutto vorrei fare un piccolo chiarimento, sì, perché è bene che si sappia. I 50.000 sono coloro che non hanno aderito, come lei diceva, alle offerte di scambio argentine del 2005-2010, ma che solo hanno voluto entrare nella procedura arbitrale ICSID, che viene diretta questa procedura dalla Task Force Argentina, quindi non sono tutti gli italiani che non hanno aderito, ma ovviamente il 90% sì, insomma, che sono entrati, certo, nell'ICSID. Quindi che cosa dice questo accordo? Prima di tutto un accordo che noi riteniamo fondamentale, perché l'Argentina riconosce, a parte il valore nominale dell'obbligazione, ma dal default ed oggi il 50% del valore nominale delle obbligazioni in interessi. Ma questo anche non sarebbe forse ancora non sufficiente, ma la cosa essenziale è che sia in contanti. Non si parla più di avere ulteriori obbligazioni come l'Argentina emette e dovrà emettere, ma si tratta di un impegno a pagare questa cifra del 150% delle obbligazioni in contanti. Ecco, però mi scusi, mi dica solo sì o no, ma è vero, i pagamenti al momento sono ancora bloccati per il contenzioso tra l'Argentina e giustizia statunitense, alcuni hedge funds che avevano... Diciamo sì, ci sono, lei parla dei dividendi di chi invece ha partecipato, di chi ha aderito nel 2005-2010. Questi sono bloccati perché l'Argentina è entrata in default tecnico 2 anni fa, quindi mi dispiace molto per chi ha voluto aderire nel 2005-2010, che attualmente da 2 anni non riceve dividendi. E questa è la domanda che ho per lei dopo il GR24, cioè se questo accordo è più o meno vantaggioso rispetto a chi ha sottoscritto nel 2005, nel 2010. Una cosa la devo dire sul tema Renzi e Bruxelles. Scrive un ascoltatore: esito della polemica di Renzi incerta, ritorno in termini di voti dando contro l'Europa assicurato. Ho capito, la politica si fa anche così, e mica si fa, cioè, è chiaro che Renzi cerca un consenso politico nel dare contro l'Europa. Io voglio dire, apprezzo Adriana Ceretelli per la sua competenza, non è che sono sempre d'accordo con quello che dice. Per esempio, ritengo che l'Europa, che noi siamo stati troppo proni nei confronti d'Europa sui temi dei migranti nel passato e sui temi della flessibilità delle banche. Dopodiché siamo stati anche un po' pirla nell'arrivare in quel modo a ristrutturare le banche, le 4 banche fallite. Bisognerebbe capire perché la Banca d'Italia non ha dato certe informazioni al governo o non ha messo in guardia che un decreto a fine novembre non si poteva fare in quel modo, veniva giù di tutto con un bail-in il 1 gennaio. Bisogna capire perché la Banca d'Italia si sveglia adesso, dice che ha i documenti, noi non li vediamo, e contesta il bail-in. C'è tante cose bisogna capire. Il problema di Renzi, a nostro avviso, è chi lo consiglia e di chi si fida nell'entourage, ok? Non l'attacco all'Europa, ma ognuno la può pensare come vuole. Intanto c'è il GR24. Radio 24 ti porta nel vivo del Festival di Sanremo. Ogni giorno Enrico Ruggeri ci racconterà le emozioni e i personaggi da un punto di vista speciale, quello di chi partecipa alla gara. Appuntamento con il Sanremo di Ruggeri, dall'8 febbraio nel GR delle 7 e in effetto giorno. Nella stessa settimana, con Il Falco e il Gabbiano, speciale Sanremo, alle 15.30, rivivremo insieme gli anni più significativi di questo grande evento. Inoltre, come sempre, con l'inviata Marta Cagnola, la cronaca del festival. Novità e curiosità nei giornali radio e nei programmi. Radio 24. La passione si sente anche al festival. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, al presidente della Task Force Argentina, Nicola Stock, l'accordo annunciato oggi per i 50.000 risparmiatori che non avevano diritto alla ristrutturazione delle obbligazioni argentine 2005-2010, è migliorativo, cioè è migliore, più migliorativo, è migliore o peggiore o uguale? Perché questo poi mi chiedono gli ascoltatori. Rispetto a chi ha aderito ritengo migliore, senz'altro, perché lei deve immaginare che chi riceverà, e se dico la Regina dovrebbe far fronte a questo accordo che abbiamo sottoscritto il weekend, perché non è un importo enorme, e ci siamo sincerati che più o meno la liquidità ce la dovrebbe avere, anche perché ha fatto un accordo negli ultimi giorni con 4 banche internazionali per oltre 5 miliardi di dollari, quindi diciamo migliorativo, perché a parte ricevere il 100% del valore nominale, riceveranno in aggiunta un altro 50% che sono i dividendi fino ad oggi, quindi praticamente su un titolo del valore nominale di 100 riceveranno 150, ma non è solo questo, perché riceveranno anche questo importo completamente in contanti. Allora, devo dire che per dovere di cronaca, voi vi eravate sempre opposti al fatto che i risparmiatori aderissero all'offerta 2005-2010? Questo... No, non ci siamo, no, vorrei essere chiaro, noi ci siamo opposti all'offerta del 2005 perché quella del 2010 avevamo detto chiaramente agli ascoltatori, ai nostri obbligazionisti, sì. L'ICSID l'Argentina vi offre questo importo che è leggermente inferiore anziché a quello del 2005. Noi con l'ICSI siamo a questo punto. Siccome siete voi i possessori delle obbligazioni, vi facciamo vedere la differenza tra uno e l'altro. Siete voi che dovete decidere chi ha deciso quindi di entrare nell'offerta e chi invece ha ritenuto di voler proseguire. Vabbè, non è molto diverso da quello che ho detto io. Comunque, va bene, eravate a favore del fatto di proseguire nella trattativa. Questo lo possiamo dire come Task Force Argentina. Sì, assolutamente. Grazie anche al presidente appunto della Task Force Argentina, Nicola Stocchi. Adesso andiamo sulla giornata di borsa. Brutta giornata in tutta Europa per il petrolio, lo dico così iniziamo a distinguere, meno 2,50% Parigi nel finale, meno 1,80% Francoforte, meno 2,28% Londra, meno 1,70% in questo momento il Dow Jones, e ha perso il 3% Piazza Affari, è tornata sotto i 18.000 punti a 17.922 punti. Male oggi tanti titoli, veramente Ferrari perde il 9,60%, Monte dei Paschi l'8,24%, Popolare Emilia Romagna 6,80%, Estima Electronics meno 5,80%, Pop Milano meno 5,50%, UBI Banca meno 5,20%, poi i titoli legati al petrolio, Tenaris meno 4,90%, Eni meno 4,80%, male anche Xor meno 4,50%, la controllante del gruppo Fiat. Fiat Chrysler perde il 2,66%, Mediolanum meno 4%, il lusso Ferragamo meno 3,80%, Yoox Net-a-Porter meno 3,80%, come Prismian e anche CNH, Generali meno 3,70%, Intesa meno 3,40%, Saip meno 3,30%, il 3,20% lo perde Unicredit e anche Unipolsai, il 3%, e qui mi fermo, il calo di Azimut e di Buzzi Unicem. Positiva Atlantia dello 0,40%, invariati Talcementi, cali minori per Campari meno 0,30%, Moncler meno 0,40% e Luxottica meno 0,60%. Come sempre con Radio Cori sulle 24 ore, Paolo Paronetto, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera a tutti. Allora, tutte le borse negative per il tonfo del petrolio, meno 5%, i petroliferi, i titoli legati, insomma, si commentano da solo. Vorrei capire che è successo sui bancari, perché insomma è chiaro che sembra allontanarsi l'ipotesi di una fusione di UBI Banca con il Monte dei Paschi, però perde sia UBI che il Monte dei Paschi, prego. Sì, esattamente, questo è stato il tema iniziale, poi nel corso della seduta hanno perso Terreno tutti, quello che ha più limitato i danni è il Banco Popolare, che comunque ha chiuso in calo dell'1,66%, qui il mercato continua a scommettere su un'imminente via libera all'aggregazione con la Popolare di Milano, anche se il fatto non è ancora completato, devono mettere a punto ancora alcuni dettagli, e diciamo che poi man mano che si chiude la seduta le banche hanno risentito, come spesso accade, più delle altri settori del clima generale negativo innescato, come hai detto tu, proprio dalle vendite sulle materie prime e sul petrolio, e quindi alla fine le vendite hanno travolto tutti i principali titoli, soprattutto quello di MPS, che ha chiuso in calo dell'8,2%. Senti, Saipem perde sia sui diritti che sul titolo? Sì, soprattutto sui diritti, che ormai fanno gran parte della capitalizzazione di Saipem, che hanno perso il 21,52%, meglio ha fatto il titolo, che ha chiuso a meno 3,32%, ma appunto il titolo ormai è soltanto una minima parte della capitalizzazione della società, quindi è stata un'altra giornata di passione. Ricordiamo che venerdì si chiude la negoziazione in borsa dei diritti sull'aumento di capitale. Ferrari e Fiat. Allora, Fiat non si era mossa male perché c'erano i dati sull'immatricolazione. Ferrari invece è finita anche in asta di volatilità e ha chiuso molto male. Peggior titolo, meno 9,60%. Sì, Fiat Chrysler per gran parte della seduta era stata anche vicina alla parità grazie alle vendite migliori della media del mercato in Italia in gennaio, mentre per quanto riguarda Ferrari è un tema dell'ultima ora di contrattazioni, cioè da quando la società ha annunciato i conti 2015, che hanno deluso, che sono stati in linea fondamentalmente o anche migliori, ma hanno deluso moltissimo sul fronte dell'indebitamento finanziario, che a fine 2015 era pari a 1,8 miliardi, più che doppio rispetto alle stime di mercato, che si fermavano attorno agli 800 milioni, e anche le previsioni sul 2016 a livello soprattutto di EBITDA sono state inferiori a quanto atteso dagli analisti, di qui il crollo del titolo, che più o meno perdeva il 3% prima dell'annuncio dei risultati, ha chiuso appunto a meno 9,59%. Allora, ancora di Saipem e Ferrari abbiamo detto, e anche di Fiat Chrysler. Devo dire che, ripeto, sul resto, quando hai ondate di vendite in tutta Europa, con un'America che ti dà una mano come battuta, nel senso che aumenta il calo, c'è poco da andare contro. Moncler ha lanciato un buyback, no? Un milione di titoli, cioè lo 0,4% del capitale, è partito oggi, e quindi ha sostenuto naturalmente l'andamento delle azioni. Generali sempre in difficoltà, andiamo sui migliori e difficoltà, però devo dire la verità, oggi è difficile anche distinguere nel mercato, perché Generali perde il 3,76%, l'indice complessivo perde il 3%, ci sono report di anni difficili, la situazione precaria dopo l'uscita di Greco, dai, insomma, il tema è sempre l'uscita di Mario Greco. Tra i migliori e peggiori in assoluto oggi in borsa, eccoci qua. Dunque, Ferrari è in assoluto, se leviamo le Saipem, il peggior titolo. Gambero Rosso meno 9,20, Cassa di Risparmio di Genova meno 9,15, Monte dei Paschi meno 8,20. Adesso, insomma, sono le due banche con più difficoltà a trovare un matrimonio, uno sposo. Banca Sistema meno 8, Safilo meno 7,30%. Il fronte opposto è rappresentato da Ambro Mobiliare più 5,20, Energica Motor Company più 20, Neurosoft più 5,70, Italia Independent più 4,30%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Colli, Sole 24 Ore. Traffico e poi l'ultimo tema, i dati di oggi su occupazione e disoccupazione. Focus Economia. Allora, i dati di oggi, devo dire che è appena uscita la Confindustria, il centro studio Confindustria, che a gennaio stima una produzione industriale dello 0,6% in crescita su dicembre. E gennaio 2016 rispetto a gennaio 2015, a parità di giornate lavorative, fa un più 2,6%, sarebbe un buon dato sulla produzione industriale. Il dato invece è in parte deludente, almeno in parte sicuramente deludente sul mercato del lavoro, perché il tasso di disoccupazione è risalito a dicembre rispetto a novembre dall'11,3 all'11,4%, è migliorato invece rispetto a dicembre 2014 dello 0,9%, le persone in cerca di occupazione sono in calo di 254.000 unità rispetto a un anno prima, meno 8%, sono invece un po' aumentate rispetto a novembre, 18.000 in più. La disoccupazione giovanile è scesa al 37,9%, e poi il dato che riguarda l'anno su anno vede in un anno l'aumento dei contratti a tempo determinato del 4,9%, a tempo indeterminato dell'1%, i contratti a tempo indeterminato sono 135.000 in più rispetto a un anno prima, i lavoratori autonomi sono diminuiti di 138.000. L'Istat fa sapere che il calo degli occupati è determinato dagli indipendenti, mentre sono aumentati i dipendenti. Allora, professor Carlo Della Ringa, economista, ex sottosegretario al lavoro, deputato del PD, l'ho preciso ogni volta, ma siccome io apprezzo la sua onestà intellettuale e grande conoscitore del mercato del lavoro, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Dato abbastanza, so che dire in chiaroscuro sembra di essere democristiani, però insomma è in chiaroscuro veramente, perché non è bello mese su mese, e invece conferma un dato positivo a dicembre rispetto a un anno prima. Teme che questo mese su mese possa essere, diciamo, il segnale che si è fermato l'effetto? Beh, questo, che l'effetto maggiore ci sia stato nei primi 6-7 mesi dell'anno, è indubbio. Cioè, abbiamo avuto una curva ascendente fino ad agosto, soprattutto per, diciamo, l'occupazione complessiva e soprattutto la componente subordinati, dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato. C'è stata una curva ascendente fino ad agosto, che si è raggiunto il picco. Da allora ci sono stati un po' di saliscendi, ma grosso modo la curva è tornata piatta. Allora cosa si può dire? È dicembre, possiamo fare un discorso riassuntivo di un anno in termini tendenziali, e possiamo dire che c'è stato un ottimo effetto per quanto riguarda l'aumento dell'occupazione regolare, che ha assorbito e ha sostituito occupazione, partite IVA, collaborazioni molto spesso fasulle. Quindi un effetto positivo di almeno 250.000 dipendenti, molti a tempo determinato, ma ricordiamo che prima del Jobs Act c'era stata la legge Poletti, che aveva allargato le maglie per il tempo determinato, perché si considera un contratto regolare che, ancorché determinato, è meglio che non partite IVA false. Ecco, però questo effetto c'è stato positivo fino, ripeto, ad agosto, un bello scalino, possiamo dire, però da agosto ad oggi siamo tornati piatti. Quindi qual è la morale da trarre? Bisogna consolidare questo gradino, che è frutto delle politiche del lavoro del governo, però probabilmente ha esaurito per ora l'effetto d'impatto, e quindi nel futuro probabilmente un ulteriore gradino sarà possibile, ma solo se ci sarà ripresa. Questa è un po' la morale generale che si può trarre dai dati. Sì, anche perché ricordo che in legge di stabilità, in legge finanziaria, come si chiama adesso, si chiama legge di stabilità, le risorse per la decontribuzione sono dimezzate, nel senso che chi ha assunto da gennaio 2015 a dicembre 2015 avrà il vantaggio di fino a 8.000 euro in meno di contributi all'anno per 3 anni. Mentre chi assumerà, se ho ben capito il dettaglio della legge di stabilità, quest'anno avrà al massimo 4.000 euro di decontribuzione. Quindi questo può chiaramente allentare e ammorbidire le politiche del governo su questo, ma sono d'accordo con lei che o riparte o si consolida questo 0,8-0,7% del PIL del 2015 e andiamo all'1,5-1,6. Il dato della Confindustria, vediamo la conferma, però la produzione, il Centro Studi di Confindustria di solito è sempre molto preciso nel dato, più 2,6% rispetto a gennaio 2015 sulla produzione industriale, ci metterei la firma perché sarebbe un buon dato. Però Della Ringa, diciamola tutta, al di là del Jobs Act, della decontribuzione, insomma, le armi, le cartucce in mano al legislatore e al governo per agevolare l'occupazione sono finite. O riparte l'economia, giustamente le imprese tornano ad assumere o a regolarizzare i contratti perché vedono una prospettiva, o se no non è che possiamo inventarci altre leggi, o sbaglio? No, è così. Abbiamo fatto un bel gradino, perché anche uno 0,5 di occupazione in un anno in cui il PIL è 0,7-0,8 è quasi miracoloso. Mm. E soprattutto un effetto potentissimo, quell'1,5% in più di contratti regolari. Quindi vuol dire un bel impatto. Però appunto quasi quasi adesso, dopo averlo creato, cerchiamo di mantenerlo, ma l'impatto successivo non può che venire dalla crescita. Anche la decontribuzione del prossimo anno è continuata proprio per non tornare indietro, per consolidare i risultati conseguiti, ma per andare avanti nei risultati ci vuole la crescita. Anche la disoccupazione, c'è stata una bella riduzione, soprattutto quella giovanile, ma anche gli ultimi dati dicono che sotto quel livello che abbiamo raggiunto con le politiche del lavoro non si riesce ad andare. Oddio, mi suggeriscono gli ascoltatori, hanno ragione secondo me, che poi bisogna anche scorporare un po' questi dati della Ringa, nel senso che se guardiamo poi ai tassi di disoccupazione del nord e di alcune regioni del centro, certo. Noi sappiamo che in Veneto viaggia tra il 5 e il 5,5, andamento analogo anche in Lombardia, cioè sono tassi di disoccupazione fenomenali, nel senso che la Germania ha fatto record storico al 6,2%, ci sono molte province italiane in cui la disoccupazione è più bassa di quella tedesca. E ricordo che statisticamente il 5% è il limite fisiologico, nel senso che c'è sempre qualcuno che o viene licenziato o cerca lavoro o se ne va, per cui sopra il 5 inizia a essere disoccupazione vera. E poi ci sono aree al sud in cui viaggiamo a doppia cifra, anche non solo giovanile, cioè al 20% anche su quella normale. Forse la politica del governo dovrebbe orientarsi di più nell'agevolare, diciamo, le assunzioni al sud? Certamente, e questo è l'impegno. Cioè, c'è stato il decreto, diciamo così, sulla legge di stabilità, c'era questo credito d'imposta molto importante per il sud, e c'è l'impegno per il governo ad aumentare la decontribuzione del sud, ma sta contrattando con la Commissione europea per evitare che questo intervento possa essere fatto passare come aiuto di Stato. Ma c'è l'impegno del governo che quella decontribuzione per il sud duri più a lungo che non per il nord. Io penso che una fiscalità di vantaggio, se riusciamo a strappare l'Europa, potrebbe dal punto di vista delle politiche del lavoro dare anche lì frutti migliori. Non c'è dubbio che chi è arretrato soprattutto è il sud, però ricordiamoci che 10 anni fa il nostro tasso di disoccupazione medio nazionale era del 6,5%, vuol dire che in certe zone del paese era al 3-4%. Non c'è dubbio che il sud che va sviluppato, ma ancora margini. Non voglio dire che il centro-nord tutto sia positivo, ma dava una marchesa, figurarsi. Il centro-nord, capisci? No, c'è certo. Anche. Allora, e questo è il tema dell'Europa. Devo rispondere a un ascoltatore che dice: complimenti, Barisoni non dice nulla della polemica con l'Europa oggi, bravo, vergogna. Mi scusi, ma lei che programma ha ascoltato? Abbiamo parlato con Adriana Ceretelli, che ha esplicitamente detto che il governo Renzi sta sbagliando in questo atteggiamento con l'Europa. Io ho detto che non sono d'accordo con Adriana Ceretelli, per quello che vale la mia valutazione, nel senso che bisogna valutare questo attacco all'Europa, questo scontro con l'Europa nel medio termine. Soprattutto molti ascoltatori fanno notare che essere stati supini e silenti per anni non ha portato nulla. Sono particolarmente d'accordo col governo sul tema dei migranti, sul doppio peso che si è avuto quando sbarcavano dalla Libia o adesso che arrivano dalla Turchia, dalla Siria via Turchia e Balcani. E quindi su questo ognuno. Però ascoltiamo anche Adriana Ceretelli, che facendo editorialista e avendo passato una vita a Bruxelles coglie anche il senso di come l'Europa vede questo atteggiamento del governo italiano, e devo dire che in quello aveva ragione nel ricordare il silenzio degli altri stati, cioè nessuno si è messo a dire Renzi ha ragione. Ripeto, il ministro dello sviluppo economico francese, l'unico che ho letto in questi giorni, l'Italia fa bene a fare un po' di polemica sulla maggiore flessibilità, per cui mi dispiace che lei abbia perso la prima ora del programma, ma l'abbiamo ampiamente parlato. Grazie anche al deputato del PD e professor Carlo Della Ringa. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.